Facendo così si otterrà un fantastico e nuovo, adesso mi sto sguardando, hip hop. Davvero? Minchia, non ci avevo mai pensato. Rico, ma veramente sei un genio. Dai, andiamo ad applicare subito questo sistema nuovo e geniale che hai ideato tu con la tua mente perversa. Dai, dai, ti metto una base e iniziamo. Ok, va bene. Il disco peggiore che tu potessi comprare, le 10 o 20 carte peggio spese che potessi sborsare. E che ti devo dire, tanto vale, i soldi li hai buttati via. Ti conviene ascoltare, ti conviene, conviene che la situazione è fra le più strane. Direi quasi che non faresti attenzione se non ti toccasse pagare. Forse ti sembra normale, 30-40 mila lire certo. Lo sbattimento, l'etichetta, l'esportazione, la gente ci deve mangiare. I conti tornano, gli artisti suonano, gli spettatori pagano. Alcuni spettatori si incazzano, alcuni idolatrano. Si convincono che l'idolo è il massimo, benissimo. Smetto in questo stesso istante di criticare gli altri gruppi. Infatti il problema si sposta da chi suona a tu che ascolti. O perlomeno sei un buon attore, ti vedo far finta di ascoltare. Se tu ascoltassi i dischi che compri e sapessi scegliere, senza influenze esterne di nessun genere, i problemi da risolvere sarebbero nessuno. Aspetta un momento, chi ti ha mai detto? Il mio obiettivo è dare una svolta a tutto questo. Il pericolo è che mi etichettino, che mi cataloghino e mi dicano: ultimo, tu fai rap indinato demenziale, cambio canale. Non sono fra quelle persone che vedendo girare un centone pensano di voler lavorare nel magico mondo dell'industria musicale. Ti puoi bullare, ti puoi giustificare, lo faccio anch'io, sia chiaro. Ma non mi pigliare per il culo sapendo le distanze dal vile denaro. Sia chiaro che io non suono, mi esprimo, che non ho un target preciso. Io ti espongo il mio intestino, se fosse possibile per me economicamente, pagherei voi stronzi per comprare il mio disco, perché ascoltaste attentamente. Mi sembra quasi di farvi un torto, infatti io non scrivo di getto, io scrivo di rigetto. La sebiose, i senza tetto, senza tatto. Napo, io dovrei dirti una cosa. Ma che ti devo dire una cosa? Parla prima tu, ok, inizio io. Le mie rime sono fighe, le tue fanno cacchiare. Le mie rime sono proiettili che ti possono devastare. Il mio stile ti può tagliare come le ame. Faccio scalpore, sono hardcore, mi impegno per spaccare. Evoluzione, appunto, ricco dei latte biote, ti diverto a campionare. Colonne sonore dai videogiochi mame. Ma ti pare? Ti sembrano basi serie? Ti sembra che io studi metriche? Ti sembra che i latte biose predichino morali etiche? Se rispondi solo sì, vattene, dormi di notte. Non girare locali per fare quello che fa le ore piccole. Ultimo, birra analcoliche, latte biose, niente musiche, solo prediche. Già in partenza le basi non erano melodiche, adesso non sono neanche più ritmiche, un po' svizzere se vogliamo. Io non amo la musica, io la odio, gioia e tripudio invece quando faccio musica. Cosa vuol dire? Vuol dire che le parole possono significare tante cose, che il linguaggio è una convenzione e che il concetto sembra spesso ucciso dal parlare. Io direi dall'ascoltare. Il problema non è chi parla, il problema è chi ascolta. Il burro si fa i cazzi suoi, è la forchetta che lo spalma.